con uno dei curatori della seconda edizione di Roma e Cinema dal 4 al 7 aprile 2019 al centro sociale occupato Ricomincio dal Faro. Ben trovato. Ciao Federico, grazie per lo spazio. Siamo qui per parlare di REC. È arrivata la seconda edizione, Roma e Cinema è una rassegna assolutamente non competitiva, ma che dà la possibilità a nuovi autori, ad autori affermati, di poter sostenere una realtà come il Centro Sociale Ricomincio dal Faro, che è un ex cinema occupato, che da quando è stato occupato, dal 1987, continua comunque a fare cinema, ad essere cinema di riferimento per il quartiere e per la zona, visto che anche quelli tradizionali in questo quadrante della città, cioè municipio undicesimo, sono veramente pochissimi, se non nulli. Quindi come cinema è anche un modo per, soprattutto da parte degli autori e di quelli che poi saranno gli spettatori di questa rassegna, di sostenere il Centro Sociale Ricomincio dal Faro, l'indipendenza dei cinema, il fatto che in questa città negli ultimi 15 anni, avevo letto una stima paurosa proprio, sono stati chiusi 46 cinema. I cinema che aprono sono cinema con degli schermi ridicoli, più delle volte nelle sale fa caldo, dove accendono le luci sui titoli di coda, quindi c'è proprio il rito cinema in questa città ormai è scomparso, mentre invece noi continuiamo a celebrarlo, il REC è la manifestazione principe sotto questo punto di vista del Centro Sociale Ricomincio dal Faro, che ripeto fa cinema da quando è stato occupato. Noi ad esempio siamo quelli che facciamo la rassegna Voce Volto, tutti i giovedì proponiamo dei film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Da sempre comunque ospitiamo registi ed autori, e da qui è proprio andata l'idea di riuscire a metterli insieme in 4 o in 5 giorni, come stava già l'altro anno, è stato 5 giorni, a metterli tutti insieme per fare una kermesse che sia di espressione per gli autori, ma anche diciamo di affermazione delle cose che abbiamo detto prima sulla nostra idea di cinema. Allora, film di finzione, documentari, cortometraggi, raccontaci un po' il programma. Sì, allora si parte con giovedì 4 aprile con un omaggio a Mario Monicelli, un monumento del cinema italiano che tu hai avuto modo di conoscere bene e di ospitare nella tua precedente trasmissione. Quindi alle ore 19:30 sarà proiettato il documentario Maestro di che? Un documentario di Alberto Pugliafito, interverranno gli autori che sono Gianluca Mattone e Gianmarco Spineo. Poi alle ore 21 sarà proiettato Romanzo Popolare, per la regia di Mario Monicelli, appunto con Ugo Tognazzi, Ornella Muti e Michele Placido, e interverrà Federico Raponi per raccontarci il suo Monicelli, ma ci sarà anche diciamo, un ospite speciale che chi verrà potrà vedere chi è, lasciamo un po' in sospeso, un po' diciamo, una sorpresa, che ci racconterà anche lei o lui, insomma, il suo Monicelli. Poi venerdì 5 aprile, sempre alle ore 19, ci sarà la proiezione di Piccolo Mondocane per la regia di Claudio Casale e di Matteo Bennati. Interverranno l'associazione Io Me Ne Occupo e i registi Claudio Casale e Matteo Bennati. Questo documentario, per chi non l'ha visto, comunque ha girato diciamo, già un po' a Roma, racconta le vicissitudini della chiusura del canile di Muratella. Quindi, insomma, per chi non l'ha visto, è un documentario di denuncia molto interessante, è importante da vedere. Poi alle ore 21, sempre venerdì, ci sarà la proiezione del film Chito e gli alieni per la regia di Paola Randi con Valerio Mastandrea e interviene il regista Paola Randi. Sabato 6 aprile alle ore 18 saranno proiettati due cortometraggi della Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Uno si chiama 112 di Fiorenzo Salvador e l'altro si chiama Trompe l'Oreille di Giulia Tata. Questi sono i cortometraggi del biennio 2013-2015, cortometraggi diciamo di diploma fatti dagli studenti della Scuola Volonté. Interverranno i registi, quindi Fiorenzo Salvador e Giulia Tata e alcuni coordinatori della scuola. Poi alle ore 19, questa è una prima romana assoluta, la proiezione del cortometraggio Oma per la regia di Luca Luca De Ravignone, che è un giovane regista grossetano che ci ha proposto il suo cortometraggio che è, diciamo, fantapolitico, fantascientifico, un'autoproduzione da vedere. Poi alle 19:30 un altro documentario, Banda Bassotti, La Brigata Internazionale, per la regia di Antonio Di Domenico, dove interverranno alcuni esponenti della Banda Bassotti. Poi alle ore 21 I Nostri Ragazzi, per la regia di Ivano Di Matteo, con Alessandro Gassman, Luigi Locascio, Giovanna Mezzogiorno e Barbara Bobulova, e interviene Ivano Di Matteo. Domenica 7 aprile alle ore 17 sarà proiettato il documentario SRG Gigione, anche quello insomma girato un pochino, per la regia di Valerio Vestoso, ed interviene un rappresentante della Cape Town Film, la società di produzione che appunto ha prodotto questo film. Alle ore 19 sarà proiettato il documentario Per tutto questo tempo, per la regia di Demo e Paolo Freschi, il documentario che racconta la realizzazione dell'ultimo album del Colle del Frumento, Adversus. Interverrà qualcuno del Colle, ancora non sappiamo chi, ci dovrò far sapere. E alle ore 21 si chiuderà la rassegna con il nostro amico Saverio Di Biagio, che porterà il suo primo film, Qualche Nuvola, con Greta Scarano, con Elio Germano, Michele Giondino, Michele Alacque e Pietro Sermonti, e interviene chiaramente Saverio Di Biagio. Bene, ci dai in chiusura tutti i riferimenti internet? Sì, allora, innanzitutto è una cosa fondamentale, Centro Sociale Ricomincio dal Faro, Via del Trullo 330, ingresso assolutamente gratuito, quindi tutte le proiezioni sono gratuite. Sarà disponibile in tutti i giorni un servizio ristoro, quindi l'unico sostentamento di questa rassegna è il servizio ristoro, quindi venite e mangiate da noi. Riferimenti internet, Facebook, Cinema Faro Info Proiezioni, e poi chiaramente le nostre cose si trovano su Roma Attiva e anche su Dynamo Press. Sicuramente CSO ricomincio a fare Facebook, ci sono tutte le informazioni. E allora ricordiamo la seconda edizione di Roma e Cinema dal 4 al 7 aprile 2019 al Centro Sociale Occupato Ricomincio dal Faro. Un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede Ci si vede lì, speriamo poi anche tutti gli altri giorni che sarai il nostro ospite. Noi ci speriamo, poi vediamo un po' quello che si può fare. Vediamo se ce la facciamo. Un abbraccio. Ok, un abbraccio forte Federico Ciao. e forza Radio Onda Rossa. Ciao. Ciao, ciao, ciao.